Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. L'organo soffiava a pieni polmoni. Don Bournisien, in pompa magna, cantava con voce acuta. Si inchinava davanti al tabernacolo, alzava le mani, tendeva le braccia. Lestiboudois andava in su e in giù per la chiesa con il bussolotto delle elemosine. Accanto all'eggio, la bara era posata tra quattro file di ceri. Charles sentiva la smania di alzarsi, di andare a spegnerli. La campana riprese a rintoccare. Ci fu un grande spostamento di sedie. I portatori fecero scivolare le tre stanghe sotto la bara e si uscì dalla chiesa. La gente stava alle finestre a guardar passare il corteo. Charles, davanti a tutti, irrigidiva il busto. Ostentava un'aria coraggiosa, salutava con cenni del capo quelli che, uscendo dai vicoli o porte, si intruppavano tra la folla. I sei portatori, tre da ogni lato, procedevano lentamente, ansando un poco. Arrivarono. Gli uomini procedettero sino in fondo, sino allo spiazzo d'erba in cui era stata scavata la fossa. Poi, quando le quattro corde furono sistemate, vi spinsero sopra la bara. Lui la guardava scendere, scendeva, scendeva. Alla fine si sentì un urto. Stridendo, le corde risalirono. Allora Don Bournisien prese la vanga che gli porgeva Lestiboudois e, mentre con la mano destra continuava ad aspergere, con la sinistra rovesciò vigorosamente una gran palata. Colpito dai sassi, il legno della bara rimandò quella formidabile eco che ci pare simile a un rombo dell'eternità. Il sacerdote passò l'aspersorio al suo vicino. Era Omè. Lo scosse solennemente, poi lo tese a Charles, che sprofondò nella terra sino ai ginocchi, e la gettava, la terra, a piene mani, gridando «Addio!». Le mandava baci, si trascinava verso la fossa per precipitarvi insieme con lei. Lo portarono via, e presto si calmò, provando forse, come tutti quanti, l'indefinibile sollievo d'averla fatta finita. Gli affanni economici ricominciarono ben presto, poiché Lheureux incitava di nuovo l'amico Vinçart. Charles si impegnò per somme esorbitanti, non volendo acconsentire alla vendita del più piccolo mobile, del più insignificante oggetto appartenuti a lei. A ogni debito che pagava, Charles si illudeva di essere arrivato alla fine, ma se ne rivelavano altri, in continuazione. Provò a riscuotere le parcelle di vecchie visite, gli fecero vedere ricevute a firma di sua moglie. Allora gli toccò anche chiedere scusa. Félicité portava adesso le vesti della signora, non tutte, poiché lui ne aveva tenuta qualcuna per sé e si chiudeva ogni tanto nello spogliatoio per guardarsele in pace. Félicité aveva pressappoco la statura di Emma, e spesso lui, guardandola da dietro, era vittima di un'illusione e si metteva a gridare «Oh, resta, resta!». Ma a Pentecoste Félicité scappò da Yonville insieme con Théodore e rubò tutto quel che c'era ancora in guardaroba. Fu verso quell'epoca che la vedova Dupuis ebbe l'onore di partecipargli il matrimonio del signor Léon Dupuis, suo figlio, notaio a Yvetot, con la signorina Léocadie Leboeuf di Bondeville. Tra le varie congratulazioni che indirizzò a Léon, Charles inserì anche questa frase: «Come ne sarebbe stata lieta la mia povera moglie!». Un giorno s'aggirava senza uno scopo per la casa. Salì in solaio. D'improvviso si sentì sotto una pantofola una pallottola di carta. La spiegò e lesse: «Coraggio, Emma, coraggio! Io non posso provocar la rovina della vostra esistenza». Era la lettera di Rodolphe caduta lì a terra tra le casse e lì restata sinché il vento, filtrando dall'abbaino, non l'aveva sospinta verso la porta. Il tono rispettoso della lettera lo ingannò. «Forse si saranno amati platonicamente», si disse. Del resto, Charles non era di quelli che vanno al fondo delle cose. Indietreggiò davanti alle prove e la sua incerta gelosia si perse nell'immensità del dolore. Fu obbligato a vender pezzo per pezzo l'argenteria. Poi fu la volta dei mobili del salotto. Tutte le stanze si svuotarono, ma la camera di lei, era identica come prima. Dopo mangiato, Charles vi saliva, spingeva il tavolino rotondo davanti al fuoco, avvicinava la poltrona di lei. Si sedeva in faccia. Una candela ardeva in uno dei doppieri dorati. Berthe, lì accanto, si divertiva a colorare certe stampe. Accomodava i suoi giocattoli, le fabbricava pupazzi con il cartone, ricuciva il pancino sfondato delle sue bambole. Poi, appena posava gli occhi sull'astuccio da lavoro, su quel nastro che ne sporgeva, o semplicemente su uno spillo restato nascosto in un'incrinatura della tavola, veniva riafferrato dalle fantasticherie e aveva un'aria talmente triste che la bambina diventava triste come lui. Nessuno veniva a trovarli adesso. Anche Justin era scappato a Rouen, dove faceva il commesso di una drogheria, e i figli del farmacista frequentavano sempre meno la piccola, poiché al signor Homais non andava che si prolungasse quell'intimità, data la differenza delle loro condizioni sociali. Sebbene vivesse in assoluta economia, Bovary era sempre lontano dal saldo dei vecchi debiti. Lheureux rifiutò di rinnovare anche una sola cambiale. Il sequestro era ormai imminente. Allora ricorse alla madre, che acconsentì a lasciargli accendere un'ipoteca sui suoi beni, non senza lanciare una quantità di recriminazioni all'indirizzo di Emma. Chiese in cambio di quell'aiuto uno scialle sfuggito alle rapine di Félicité. Charles glielo negò. Litigarono. I primi passi per la riconciliazione li fece lei, proponendogli di prendere con sé la piccola che le sarebbe stata d'aiuto in casa. Charles acconsentì. Ma al momento del distacco non ne ebbe più il coraggio. Allora fu la rottura definitiva, completa. Via via che i suoi affetti scomparivano, si attaccava sempre più all'amore per la figlia, che tuttavia gli dava qualche preoccupazione con quella sua tosse frequente, con quelle chiazze rosse sugli zigomi. Al suo cospetto faceva bella mostra di sé, fiorente e ilare, la schiatta del farmacista, che ogni fortuna veniva ad appagare. Napoleon lo aiutava in laboratorio, Athalie gli ricamava un berretto greco, Irma gli ritagliava tondi di carta per coprire i vasetti di marmellata e Franklin recitava la tavola pitagorica tutta d'un fiato. Pareva proprio il più felice dei padri, il più beato degli uomini. Errore. Una sorda ambizione lo divorava. Il signor Homais desiderava la croce. E non gli mancavano i titoli per desiderarla. Primo, essermi al tempo del colera segnalato per un'abnegazione senza limiti. Secondo, aver pubblicato, e a mie spese, diverse opere di pubblica utilità come... E ricordava quella sua memoria intitolata del sidro, della sua fabbricazione e dei suoi effetti, poi certe osservazioni sul pidocchio della lana mandate all'Accademia, il suo volume di statistica e persino la sua tesi di farmacista. «Senza contare che sono membro di svariate società scientifiche!» Lo era di una sola. Allora il signor Homais cominciò a orientarsi verso il potere. Rese segretamente qualche servizio al prefetto durante le elezioni. Si vendette, insomma, si prostituì. Indirizzò persino una petizione al sovrano, supplicandolo di fargli giustizia, chiamandolo nostro buon re e paragonandolo a Enrico IV. E ogni mattina il farmacista si precipitava sul giornale per cercarvi la nomina. Non arrivava mai. Alla fine, non potendone più, fece disegnare in giardino un'aiola a forma di croce d'onore, sormontata da due piccoli torciglioni d'erba raffiguranti il nastrino. E vi girava e rigirava intorno a braccia conserte, meditando sull'inettitudine governativa e sull'ingratitudine umana. Thank you. Per rispetto o per una specie di voluttà che lo faceva indugiare nelle indagini, Charles non aveva ancora aperto lo scomparto segreto dello scrittoio di cui Emma si serviva abitualmente. Un giorno, finalmente, vi si sedette davanti, girò la chiave e spinse la molla. C'erano tutte le lettere di Léon. Questa volta nessun dubbio era più possibile. Le divorò sino all'ultima riga, frugò in ogni angolo, in ogni mobile, in ogni tiretto, dietro i muri, singhiozzando, urlando, smarrito, impazzito. Scoprì una scatola, la sfondò con un calcio. Il ritratto di Rodolphe gli balzò davanti tra un disordinato profluvio di messaggi d'amore. Un giorno che era andato al mercato d'Argueil per vendere il suo cavallo, l'estrema risorsa, incontrò Rodolphe. Sbiancarono vedendosi. Rodolphe, che s'era limitato a inviare il suo biglietto alle esequie, cominciò a balbettare qualche scusa. Poi prese coraggio e spinse la sua faccia tosta, faceva molto caldo, si era al mese d'agosto, sino a invitarlo a prendere una birra all'osteria. Seduto davanti a lui, masticava un sigaro parlando, e Charles si perdeva in fantasticherie, fissando i lineamenti che lei aveva amato. Gli pareva di vederci qualcosa di lei. Era straordinario. Avrebbe voluto essere quell'uomo. L'altro continuava a parlare di colture, di bestiame, di concimi, inzeppando di banalità ogni interstizio della conversazione in cui avrebbe potuto insinuarsi un'allusione. Charles non lo stava a sentire. Rodolphe se ne rendeva conto. Seguiva attraverso i moti di quella faccia il passare dei ricordi. Si imporporava a poco, le narici palpitavano in fretta, le labbra si increspavano. Ci fu persino un attimo in cui Charles, pieno d'un cupo furore, fissò gli occhi su Rodolphe che si interruppe, preso da un confuso spavento. Ma subito la faccia del medico tornò a disfarsi sotto una stanchezza funerea. «Non ve ne voglio mica», disse. Rodolphe era restato senza parola e Charles, la testa tra le mani, riprese con voce spenta la rassegnazione dei dolori infiniti. «No, non ve ne voglio mica!» E aggiunse anche una grande frase, l'unica di tutta la sua vita. «Colpa della fatalità!» Rodolphe, che l'aveva guidata a quella fatalità, lo trovò troppo accomodante nella sua situazione e anche ridicolo e un poco vile. Il giorno dopo Charles andò a sedersi sulla panchina sotto la pergola. Raggi di sole filtravano attraverso la ramaglia, i pampini disegnavano ombre sulla sabbia, il gelsomino sprigionava il suo profumo, il cielo era azzurro, le cantaridi ronzavano intorno ai gigli in fiore. E lui soffocava come un adolescente ai vaghi effluvi amorosi che gli gonfiavano il cuore straziato. Alle 7 la piccola Berthe, che non lo vedeva da tutto il pomeriggio, andò a chiamarlo per la cena. Aveva la testa riversa contro il muro, gli occhi chiusi, la bocca spalancata. Stringeva tra le dita una lunga ciocca di capelli neri. «Ma vieni su, papà!» disse la bambina. E credendo che fingesse per giocare, lo spinse dolcemente. Cadde a terra. Era morto. 36 ore dopo, su richiesta del farmacista, arrivò il signor Canivet. Lo sezionò, ma non trovò nulla. Quando tutto fu venduto, restarono 12 franchi e 75 centesimi che servirono a pagare il viaggio della signorina Bovary sino a casa della nonna. La brava donna morì quello stesso anno. Poiché papà Rouault era paralizzato, a incaricarsi della bambina fu una zia. Ma era povera e la mandò a guadagnarsi il pane in una filanda di cotone. Dopo la morte di Bovary, 3 medici si sono succeduti a Yonville senza riuscire a resistervi. Il signor Omé li ha subito battuti in breccia. Ha una clientela che fa spavento. L'autorità lo rispetta e l'opinione pubblica lo protegge. Recentemente ha ricevuto la Croce d'Onore. Sono Massimo Raffaeli e proseguo il mio commento riguardo a Madame Bovary di Flaubert. È difficile, forse temerario, dire che cosa di un libro faccia un classico. E tuttavia con Madame Bovary si va quasi sul sicuro. Tutto è stato detto sulla forma a cui Flaubert teneva tanto, cioè una forma essenziale di perfetta naturalezza, che dà l'impressione certe volte di far nascere la pagina come fosse un evento naturale, quasi che la pagina si facesse da sola. Anzi, tante volte il romanzo assomiglia a una forma della vita prima che a un'opera letteraria. E non c'è lettore che su questo fatto non si trovi d'accordo, a partire dagli scrittori che hanno fatto per tanto tempo il tifo per Flaubert e lo hanno anche a loro modo tradotto. Penso a Ritratto di signora di Harry James o addirittura all'esordio meraviglioso Boule de Suif di Guy de Maupassant. Ma sono stati d'accordo su questa grandiosità formale, così essenziale, anche critici molto esigenti come Benedetto Croce, ad esempio, che nel 1922 scriveva queste parole: «La pietà nasce dalle cose stesse, dalla stessa rappresentazione artistica che, essendo piena e vera, è tutti insieme tremenda e pietosa». Quanto invece al contenuto del romanzo, una cosa che peraltro Flaubert si vantava di trascurare, il carattere di Emma è divenuto addirittura un tipo, l'opposto si direbbe dell'ipocrita, l'esempio di colui o colei in questo caso che crede di essere qualcosa ed è invece qualcos'altro, e come tale si comporta, spera, pensa, agisce. Il bovarismo oggi è una condizione di massa, anzi è lo stereotipo della vita come frustrazione e come alienazione. In un libro che non molti ascoltatori forse conoscono, del 1902, intitolato Il bovarismo, il filosofo Gilles de Gaultier sosteneva che il bovarismo è la facoltà di credersi diversi da quello che si è. Però non è che lo trattasse in maniera moralistica. Diceva che il bovarismo non è solo un'ambizione o una pulsione cupamente suicida, ma che spesso e volentieri è una spinta, un impulso a volersi qualcos'altro, magari differenti e migliori. A distanza di un secolo c'è da dire che forse abbiamo perduto l'ottimismo del professor de Gaultier, e c'è anche forse da aggiungere che sentiamo più da allora attuale il destino di Emma. Sappiamo a memoria, però, altrettanto, che il rimedio è peggiore del male. Cerco di spiegarmi. Se Emma muore di letteratura o di cattiva letteratura, vale a dire di ricompense false, di proiezioni autolesioniste, se cioè Emma è costretta a scoprire che l'estetica, il romanzo stesso che lei vuole incarnare, non dà la felicità, ma la morte, i suoi posteri di massa, che saremmo poi noi, sono a loro volta costretti ad ammettere che di estetica vivono, anzi forse ci sguazzano. La postmodernità, una parola che Gustave Flaubert non avrebbe compreso, è appunto la vita totalmente estetizzata. Sono forme, protesi, tracce, insomma una specie di campionario, un labirinto semiotico che tutti frequentano dalla mattina alla sera, da cui nessuno però presume di poter uscire più. E c'è da giurare che, se esistesse oggi, Emma vivrebbe una sorta di bovarismo al quadrato, però di assoluta normalità. I suoi sogni, i desideri, gli slanci le tornerebbero esauditi, perché forse sono obbligatori, resi disponibili nella forma di oggetti di consumo. E così assisterebbe lei alla cura preventiva della sua insoddisfazione e conoscerebbe il remake, la bigiotteria sentimentale, che oggi è disponibile a chiunque, in ogni luogo e in ogni momento della giornata. E per una volta si chiederebbe, o magari ce lo chiederebbe, se i romanzi a corrente continua, che noi chiamiamo i palinsesti, rappresentino l'Eden o non piuttosto una discarica di merci, di foglie morte, come quelle del suo vecchio giardino a Yonville. Ecco, solo augurandoci qualcosa del genere, possiamo leggere ancora una volta la storia tristissima di Emma e possiamo persino comprendere il senso della frase più famosa di Gustave Flaubert, «La Bovary, c'est moi», perché adesso forse la Bovary siamo noi. Elsa Agalbato ha letto Madame Bovary di Gustave Flaubert, edizioni Garzanti, traduzione di Oreste Del Buono, riduzione di Chiara Nicoletti, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.